Queste note le riconoscete, sono quelle di Altri Suoni, che tendenzialmente va al martedì, questa rubrica che propone un'alternativa in musica. Intanto torniamo in diretta dopo il GR di Radio Popolare, è martedì 5 marzo, imprevedibile martedì, che ci porta a conoscere un musicista che già con Jet Live ed altri format si aggiunge Altri Suoni abbiamo conosciuto. È un trombettista, è imprevedibile, risponde a nome di Rob Mazur, che sarà domenica 24 marzo alle ore 18 al Teatro Bonci di Cesena. L'organizzazione ERT per la sede, per quanto riguarda invece la direzione artistica e area sismica, e a tale proposito con noi il ritorno di un mattiniero, Ariele Monte. Buongiorno e benvenuto. buongiorno a tutti, grazie a te. Come stai, Ariele? Bene, bellissima giornata, finalmente. Vedo che condividi con me questa micro sensazione primaverile, tra l'altro, ne sono ben contento. Ho aperto così oggi la diretta e speriamo ovviamente di averne non solo un anticipo ma una continuità. Arriva Rob Mazur, che io lo seguo da tempo coi lavori Chicago Underground Trio, Sao Paulo Underground, sempre questa parola, no? Underground. Rob Mazur, che intanto è una data esclusiva europea. Come arriva a Cesena Rob Mazur? Non dirmi in aereo o in treno, perché non è in quel modo che voglio sapere. No, è stato un coinvolgimento della direzione del Teatro Bonci, che fa capo all'Emilia Romagna Teatro Fondazioni, che ha chiesto a noi, alla Resismica, una collaborazione per una data. E il primo nome, appunto, che ci è venuto in mente è stato quello dell'Exploding Star Orchestra di Rob Mazurek, un inseguimento durato anni per Area Sismica, ma che, appunto, insomma, per la fattibilità era molto complesso. Invece quest'unione delle forze ha fatto sì che siamo riusciti a portarla in Italia, questa formazione che è abbastanza rara già in Europa, è praticamente quasi unica in Italia come possibilità. C'è stato a Sant'Anna Resi una decina d'anni fa e poco più. Sì. Nella formazione completa, intendo, cioè nella formazione, certo, che lui comunque porta in giro nei grandi festival. E per l'occasione, anche per l'amicizia che lega Mazur con la Resismica da tanti anni, città di Chicago Underground, di Sao Paulo Underground, il Black Cube, insomma, la Resismica è venuta con tutte le formazioni possibili e immaginabili, tranne questa, e ha pensato di creare una composizione scritta appositamente per questo evento, che si chiama Psycho Chambers, di cui ci sarà appunto la prima. Ed è una data unica, perché non è una tournée, ma è proprio una data su richiesta. Sì, è un incontro su richiesta, ebbene, sì. Che qualità, oltretutto, lui ha partecipato, ha condotto, tra l'altro, qui in versione anche di compositore, alla direzione di questa estesa orchestra, dove troviamo il fido batterista Chad Taylor, troviamo Pasquale Mirra, col quale ha già lavorato in precedenza. Insomma, è un Rob Mazurek che riporta sonorità di ricerca, curiosità, come dico spesso, per alzare l'asticella dell'ascolto. Come lo troveremo, oltre che in questa estesa formazione, la proposta di Mazurek? Parliamo un po' del Mazurek nella sua proposta musicale, Ariele. Ma allora, Mazurek, per questo, diciamo, proprio per indole, nasce sì come estrazione chiaramente nel mondo del jazz, ma è una figura che ha sempre mischiato molto le carte, e anche nei Sao Paulo Underground è molto chiara questa cosa, ma anche nei suoi progetti più votati al jazz, come poteva essere Sound Ease, il suo quintetto dove c'era Joshua Adams, eccetera. Lui comunque, non so, introduceva elementi come John Hernon, dei Tortoise, anziché magari un batterista più classico. Quindi è sempre stato qualcuno che ha mischiato le carte. E se posso citarvi Pasquale Mirra, non è una scelta casuale. Pasquale Mirra nell'Exploding è una figura stabile, ha suonato, non so, a Son d'Hiver qualche anno fa, ha suonato a Parigi, al DSM Agosto a Lisbona. È comunque una figura che, quando Mazurek decide di fare una composizione nuova per l'Exploding Star, comunque Pasquale Mirra è tutti gli effetti un membro, non è il fatto che sia in Italia che allora ha chiamato Pasquale. È una collaborazione, no, ma tra l'altro ha lavorato anche in duo, Mazurek e Pasquale Mirra, per cui si immaginavo che ci fosse una conferma. No, quando ho letto il roster della formazione, dico, vedrai che Pasquale Mirra c'è, e in effetti così è stato. Sì, è una grandissima gioia, anche perché insomma è finalmente un riconoscimento a livello internazionale di un musicista che se lo merita tutto, ecco. Questo era, volevo solo semplicemente innovatore, curioso, atipico, attento ai suoni nel mondo, come del resto lo è anche il trombettista Mazurek. Ascoltiamo un po' di musica da un disco della Thrill Jockey, label di Chicago, dei Tortoise. Anche hai citato i Tortoise, e questo ha un'attinenza con Mazurek, in questo caso in trio con Chad Taylor, Rob Mazurek, il Chicago Underground Trio, Thrill Jockey. Ce lo ascoltiamo e torniamo subito in diretta. Puoi restare 2 minuti? Ma certo, grazie. Volentieri. Alcune note, ma assolutamente intuibile. Intanto questa è stata una piccola divagazione nell'estesa discografia di Mazurek per Thrill Jockey. Non ho citato il bassista, grande talento, che Noel Cooper Smith nel Chicago Underground Trio, insieme al batterista Chad Taylor e il trombattista Rob Mazurek. No, stavo dicendo alcune citazioni, ma sono abbastanza intuibili e di certo aumentano la curiosità per quanto riguarda gli aspetti di proposta musicale del trombettista di Chicago, l'approccio totalizzante di Sun Ra, la idea, se vogliamo, anche con una versione, come troveremo a Cesena estesa, di quella che è l'Art Ensemble of Chicago. Insomma, tutti aspetti di un'avanguardia in jazz molto totalizzante. Ci sei, Ariele? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, con grande entusiasmo, insomma, sei contento di tutto ciò, immagino. Beh, sì, come ti dicevo, fin da quando parliamo del il primo approccio, sono stati gli inizi degli anni 2000, che poi si è concretizzato il primo concerto verso la fine del primo decennio degli anni 2000. C'è sempre stata questa volontà, la voglia di fare l'Exploding, quindi essere riuscito a concretizzarla è una grandissima gioia, anche perché poi la formazione è una formazione che è sempre stata variabile, e in questo caso la composizione avrà una sezione ritmica di grandissimo impatto, perché abbiamo Chad Taylor, come abbiamo sentito adesso le sue capacità nel Chicago Trio, li abbiamo come base in questo momento, ecco. Okay. Che è tentacolare come batterista. Ci sarà una seconda batteria, che è Michael Patrick Avery, e in più c'è una figura, un collaboratore storico di Mazurek nei South Pole Underground, che è Maurizio Taccara, le percussioni elettroniche. E poi abbiamo 2 vibrafoni, perché oltre a Pasquale Mirra c'è anche Victor Viera Branco, e Ingebrigt Akerslåtten, che è il bassista del Sting, dei Young Mother, che completa una sezione appunto ritmica che sarà di grandissimo impatto. Quindi sono molto curioso di ascoltare questa nuova composizione, perché deve essere veramente qualcosa di molto coinvolgente. Esplosivo. Exploding Star Orchestra. Infatti abbiamo una formazione eterogenea che arriva a Stati Uniti, Norvegia, Italia, Brasile, e la data in esclusiva europea, la curatela è di ERT, l'organizzazione di Area Sismica, è una sede, è una realtà nell'avanguardia, nella ricerca, che non può certo mancare nella neonata rubrica all'interno del Breakfast Club, ormai presente su Radio Città Fujiko da oltre 11 anni. Per quanto riguarda queste sonorità, non può certo mancare Area Sismica, e quindi, anche se già ci conosciamo, per me è un grande piacere dare il benvenuto alla concerti che tiene nel cartellone di Area Sismica. Allora, Ariele, ne approfitto prima dei saluti per chiederti anche, Area Sismica, come sta andando, progetti futuri, visto che avremo modo di sentirci. Come ti ho detto, ho questa nuova rubrica alla quale tengo particolarmente. Ci puoi dire qualcosa di più? Ah, sì, allora l'anno si è aperto, direi, benissimo, non bene, perché cioè, il calendario è stato veramente un incastro di diverse esperienze, quindi siamo molto contenti di come è andata. Abbiamo altre due date nella sede storica, che è Tolle McDonald's e Luca Perciballi, le prossime due domeniche, sempre alle 6 del pomeriggio come la data dell'Exploding, e poi si trasferirà per una serie di date al mare, a Lupo. Ci saranno alcune date organizzate da Area Sismica direttamente in spiaggia, quindi insomma. Bello, dai, dalla primavera all'estate, quindi abbiamo parlato anche di questo con l'idea di Riviera. Io ti ringrazio tantissimo, ricordiamo, è domenica 24 marzo 2024 alle ore 18 al Teatro Bonci di Cesena, ERT Emilia Romagna Teatri, la fondazione, la organizzazione, la direzione artistica di Area Sismica. Ne abbiamo dato anticipazione sempre per Area Sismica con Ariele Monti, al quale auguro una buona giornata e appuntamento a un prossimo incontro sempre sui 103.1 in altri suoni o in Jazz Live di Radio Città Fujiko. Grazie Ariele, una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata a tutti, grazie. Ciao. Ciao. Che ho portato, abbiamo ascoltato due brani tratti dal Chicago Underground Trio per Thrill Jockey, questa esplorazione nel modern jazz, questo invece è Sao Paulo Underground, un altro lavoro chiaramente già dal nome e dalle sonorità che state ascoltando più vicino all'aspetto carioca e brasiliano per Rob Mazurek. Grazie Area Sismica, grazie Ariele Monti, un po' di musica e poi equilibrio, oggi fondamentale per quanto riguarda non solamente il perché del Moved Groove, ma anche la nostra quotidianità, e sarà protagonista, magari ne faremo uno starting five insieme a Pietro Rossi, già presente in diretta con noi. Aspettiamo anche la palla 2 per aprire la nostra realtà tra perché e vita quotidiana, il Moved Groove. La colonna sonora già la conoscete, e tra pochissimo alzeremo la palla 2 del martedì, oggi 5 marzo 2024. A tra poco. Thank you. Se fico.